pochi mesi ho inserito molte canzoni su YouTube, ma nessuna, nessuna, nessuna ha fatto scoop. Mi hanno detto: se vuoi essere qualcuno, una canzone che fa scoop devi fare. E per fare una canzone che fa scoop, mi hanno detto, devi essere volgare. No, non sono d'accordo, Berlusconi non è un... No, non sono d'accordo, Veltroni non è un... No, non sono d'accordo, Maroni non è un... No, non sono d'accordo, Formigoni non è un... No, non sono d'accordo, Bin Laden non è un... No, non sono d'accordo, Barack Obama non è un... No, non sono d'accordo, Giuliano Ferrara non è un... No, non sono d'accordo, Mike Tyson non è un... No, non sono d'accordo, questa canzone non sarà uno scoop.